sabato abbiamo la manifestazione del Bosco che Cammina, che partirà dal Cerebì, passerà da 20 pietre e tende, diciamo, a portare sotto al palazzo comunale il bosco che chiede di essere tutelato e si fa portatore dei valori della salute pubblica, rispetto dell'ambiente, in un momento che crediamo sia di grande sensibilità, anche diffuso. Il giorno prima ci sarà il Friday for Future in contemporanea in tutto il mondo, e quindi anche a Bologna. Speriamo che la sensibilità cresca e si capisca che questo patrimonio che abbiamo proprio a pochi passi dal centro è veramente inestimabile. Abbiamo visto anche poco tempo fa i dati sulla qualità durata della vita in diverse aree di Bologna. La salute pubblica e il bosco si traducono in anni di longevità e quindi in minore incidenza delle malattie. Crediamo che questo sia un valore da preservare per tutti. Voi comunque sia ci avete abituato a manifestazioni ricche di fantasia, ricordo Abbracciamo il Bosco, ricordo quell'altra Puliamo i prati di Caprara dai rifiuti e le cose, sensibilizziamo, facciamo corsi di yoga. Come sono andati i laboratori di preparazione degli alberi e dei costumi? Abbiamo preparato diversi materiali che appunto hanno anche l'obiettivo di coinvolgere le persone, le famiglie, i bambini, diciamo, a sensibilizzare appunto alle tematiche ambientali, e tutta questa creatività anche lo scopo di fare una manifestazione che vuole essere di protesta e critica, anche un momento di grande condivisione, di socialità, di persone che sempre più si trovano unite nelle loro diversità, anche generazionali, a volte anche di posizione politica, ma si trovano unite nel chiedere appunto un cambio radicale di rotta sulle politiche ambientali e sulle politiche urbanistiche anche in questo caso, perché noi abbiamo una piattaforma che ha diversi punti: il bosco, la tutela, diciamo, del centro sportivo CRB, la tutela della città pubblica, la mobilità sostenibile, sono diversi punti di vista, diciamo, di un unico progetto di una città vivibile, inclusiva e che tiene conto di tutti e dei bisogni di tutti. Il comitato lavora sempre su, diciamo, diversi binari, che sono quello appunto, no, del coinvolgimento della cittadinanza, della sensibilizzazione, della partecipazione. Il Bosco che Cammina fondamentalmente fa parte di questo, però noi contemporaneamente stiamo lavorando su gli altri fronti della battaglia. Uno è quello della conoscenza, e stiamo ancora lavorando con un gruppo di lavoro che si sta costituendo e si sta rafforzando per dimostrare scientificamente e tecnicamente che i prati di Caprara sono un patrimonio di tutti, che deve essere preservato. Quindi quel lavoro che abbiamo iniziato a fare con Parteciprati, in particolare con il gruppo degli esperti, è arrivato all'istruttoria coinvolgendo anche gli altri attori al di fuori del comitato. Quel lavoro continua, diciamo, quindi su quella strada su cui stiamo lavorando per ora abbastanza in silenzio, ma diciamo che prima o poi si manifesterà. E poi abbiamo in programma, ma questo lo annunceremo a breve, una nuova giornata di pulizia del bosco, anche questo in collaborazione con le altre associazioni della nostra rete, perché appunto in questi mesi di silenzio il degrado, naturalmente l'abbandono, continuano. Ci sono ogni tanto delle sparate su alcuni quotidiani, però diciamo nulla cambia, e noi crediamo che saremo soltanto noi in qualche modo che faremo cambiare le cose riappropriandoci di questo bosco urbano e facendo finalmente un patrimonio accessibile per tutta la città. Fra l'altro volevo anche ricordare che oltre 17.000 persone hanno votato il Bosco dei Prati di Caprara come luogo del cuore. Poi adesso torna la primavera, quindi diciamo in primavera un bosco urbano, un bosco di pianura è particolarmente interessante. Ci sono le fioriture, ci sono i profumi, ci sono i canti, no, dei serbi del. Quindi diciamo in programma dopo la primavera, dopo aver pulito il bosco, vogliamo continuare, no, che è un posto dove si può entrare, dove si possono fare delle cose, e noi rivendichiamo questa accessibilità, ecco. La vogliamo presto, non vogliamo altri 10 anni di nulla, diciamo, di abbandono, che non faranno altro che peggiorare la qualità della situazione. Quindi vi aspettiamo tutti sabato 16 marzo, noi partiamo dall'ex CRB in via Marzabotto 24 e poi faremo via Marzabotto tutta la via Emilia fino a Piazza Maggiore, Palazzo Comunale, e lì a conclusione della marcia del bosco, del cammino del bosco, ci sarà una grande festa e durante il percorso ci saranno musica, danze e fino a quando avremo voglia di restare. Ci sarà un incontro col sindaco anche? Non è previsto. No, non è previsto. A meno che lui non scenda dal palazzo del potere. Noi arriviamo fino sotto il palazzo del potere simbolicamente, poi vediamo cosa può succedere.